peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Micia, prova. Quindi prima, anche prima avevi detto prova e funzionava. Vedete che appena sente il mio voce non andare a bere il bicchiere di silenzio, che però ne va. Però non mi ricordo neanche più cosa che dovevo dire, avevo già archiviato nel cervello. Salve a tutti, sono Sandro Baroni da Salpinaz. Oggi un confronto, se così si può dire, visto che ogni volta bisogna trovare una sorta di canovaccio, di filo conduttore, un confronto tra due trombettisti di qualità e anche ormai di generazioni diverse, pur essendo il più anziano ancora piuttosto giovane. E la tromba è sicuramente uno degli strumenti che negli ultimi tempi, negli ultimi anni, ha avuto un'evoluzione, nonostante la lunga storia alle spalle, un'evoluzione interessante. Sono diversi i musicisti, i trombettisti di straordinarie qualità tecniche e anche espressive che si sono affacciate sulla scena internazionale negli ultimi anni. I due musicisti dei quali ascolteremo alcune cose sono Peter Evans e in seguito anche Ralph Alessi. Peter Evans è un trombettista dell'area newyorkese che si produce in un'infinità di progetti diversi. Sono diverse anche le produzioni, diciamo, che lo vedono protagonista sia di quello che può essere l'esperienza della tromba, quindi la visione più storica della tromba nella storia del jazz, sia anche quello che può essere legato alla musica creativa, improvvisata, delle esperienze più legate al free più radicale. Il primo disco che prenderemo in esame, dal quale ascolteremo alcuni brani, è di un gruppo ormai consolidato e conosciuto, che vede anche la presenza di altri protagonisti tra i più interessanti delle ultime generazioni. Si tratta dei Mostly Older People Do The Killing, un quartetto formato, oltre che da Peter Evans alla tromba, da John Airbagon alle anse, poi Mop Elliott al contrabbasso, che è anche il leader della formazione, perlomeno colui che ha ideato e organizza questo gruppo, e Kevin Shee alla batteria. In questa formazione, che peraltro nell'ultimo anno è stata estremamente attiva, che vede proporre addirittura due dischi, quest'ultimo lavoro è dedicato alla musica tradizionale degli anni 20 e 30, si tratta un disco intitolato Red Hot, e vede anche la partecipazione di alcuni ospiti, sempre dello stesso ambito e della stessa, diciamo, intenzione espressiva, cioè questa area un po' scanzonata e trasversale che è della rilettura dei classici americani. E si tratta di David Taylor al trombone, Brandon Seabrook al banjo elettronico. Brandon Seabrook, peraltro, è un musicista che negli ultimi tempi lo si vede come sideman in diverse situazioni, anche perché è interessante la timbrica del suo strumento, che sicuramente può riportare anche alla tradizione della storia del jazz, però è sicuramente un modo molto diverso di intendere l'utilizzo del banjo. E al pianoforte, una presenza da protagonista, al pianoforte Ron Stabinski, altro musicista giovane e sicuramente interessante da seguire. Ascolteremo adesso alcuni brani, tre brani, in successione di questi classici, riletture di questi classici della storia degli anni 20. Thank you. Questo era l'ultimo lavoro dei Mostly Other People Do the Killing, intitolato Red Hot, questa dedica alla musica degli anni 20-30, che è interessante. È interessante che recentemente molti sono i musicisti che si avvicinano alla rilettura in maniera diversa dei classici di quegli anni. Questo in verità sembra più un recupero anche delle atmosfere da Stalling, cioè musiche per i cartoni animati, questa stilisticamente molto dilatati, molto come dire, più da divertissement che non da analisi di qualunque tipo. Ma altre riletture vengono fatte anche dalla grande scuola di Chicago, della ACM di questi anni, oppure altro personaggio tipo Carpenter, che sta rileggendo in modo più accademico queste pagine, andando a recuperare anche delle composizioni ormai dimenticate da molto tempo. È sicuramente una fase che non è occasionale, questa del recupero degli anni 20 e 30, della tradizione. In questo caso mi sembra un po' da cartolina, come peraltro è anche la modalità di questa formazione. Peter Evans, poi, come dicevo anche all'inizio, segue anche altri percorsi, anche insieme a John Ira Begon. Entrambi hanno un po' la voglia di far vedere quanto sono bravi, cimentandosi in progetti che li vedono in trio, in pratica con improvvisazioni dall'inizio alla fine, dove mettono in luce le straordinarie capacità tecniche. Ecco, in questo caso uno degli ultimi lavori di Peter Evans, che peraltro quest'anno ha prodotto almeno 4 dischi a nome suo, oppure nei quali è coautore. Un disco interessante intitolato Zebulon, che vede Peter Evans alla tromba accompagnato dal contrabbasso di John Herbert e dalla batteria di Cassa Overall, sicuramente meno conosciuto degli altri, anche questo un giovane dell'area newyorkese e anche con delle qualità notevoli. Il disco, direi che tutto sommato, pur essendo praticamente composto da 4 lunghi brani improvvisati, risulta senz'altro piacevole anche nello sviluppo che ne fa Peter Evans alla tromba, perché ha uno sviluppo di tipo classico, non è particolarmente ostico nelle sue, come dire, ostentazioni di rilettura. Ascoltiamo una parte del brano di apertura di questo lavoro. Thank you. Questa era la tromba straordinaria di Peter Evans con John Herbert al contrabbasso e Cassan Overall alla batteria. Decisamente un trio consistente, ben teso, ben costruito, soprattutto per le qualità di trombettista di Peter Evans. Ha questo fraseggio alla tromba che è sicuramente classico, è legato alla tradizione, quindi non è un utilizzo diverso, ma è che la costruzione poi di questi assolo a un certo punto mostrano la corda, nel senso che da un punto di vista compositivo risultano estremamente deboli, e questo può essere il limite indubbiamente, però anche solo ascoltare il fraseggio, la perfezione tecnica, la sonorità, l'agilità con la quale si muove in ogni condizione, insomma, è comunque un'esperienza di alto livello. E per passare all'ultimo disco, ed è anche il secondo trombettista, è Ralph Alessi, una generazione più anziana, diciamo, pur essendo intorno, diciamo, ai 50 anni, tra i 40 e i 50 anni più o meno. Ralph Alessi ormai è una storia soprattutto di gregario, è un musicista che ha lavorato moltissimo come sideman, penso a tutte le esperienze con Uri Kane, ma appunto in ambiti legati poi a quella che era un po' un certo ambiente newyorkese. È un trombettista pulito, corretto, ha un'impostazione molto, molto classica, anche lui è abbastanza assimilabile come tipo di impostazione. In questo caso è approdato, questo recentemente, è approdato nel grande carrozzone della etichetta ECM, e quindi vede anche la possibilità di proporre un proprio gruppo come leader e di proporre la propria musica. Questo lavoro, che è uscito recentemente, intitolato Baida, è una buona sorpresa, un disco di buona qualità, non interamente, però raggiunge in diversi momenti dei livelli elevati, anche da un punto di vista compositivo sono interessanti alcuni di questi brani originali. La formazione è una formazione, diciamo, di sidemen ormai consolidati, gente con esperienza profonda alle spalle, anche con una condivisione di percorso con Ralph Alessi. Si tratta di Jason Moran al pianoforte, pianista decisamente bravo, Drew Grass al basso e Nasheed Waits alla batteria, forse il più giovane del gruppo. Nasheed Waits, figlio d'arte, batterista anche lui con la capacità di muoversi sia in ambienti free sia in hard bop, nell'arbo più tradizionale, e quindi un quartetto professionalmente elevato, con qualità elevate. La musica che propone Alessi, sono tutte composizioni sue, è di ottimo livello. Ascolteremo tre brani presi da questo ultimo lavoro delle CM. Thank you. Questo era il quartetto di Ralph Alessi, nell'ultimo lavoro, anzi, credo che sia anche l'unico disco fatto come leader, uscito recentemente per l'etichetta ECM, intitolato Baida. La formazione era, oltre che Alessi alla tromba, Jason Moran al pianoforte, Drew Grass al basso e Nashet Waits alla batteria, quindi una formazione di grandi musicisti e il risultato è decisamente apprezzabile. E questo è anche l'ultimo ascolto per oggi, ci possiamo salutarvi, vi ricordo che potete riascoltare la trasmissione nel nostro sito radiocittafujiko.it nella sezione playlist e potete vedere e anche trovare anche le informazioni discografiche su quanto abbiamo ascoltato. Salve a tutti, alla prossima. Sal Peanuts. Jazz on Megahertz. Sal Peanuts. Alla console Sandro e Alfredo.